accanto a chi resta bambino. Quando inizi a capire son guai, cambia tutto, il mare, il cielo e i sogni non sognano più. Solo nella vita e tra la gente, come una stella cometa senza meta, senza aria no, non si può respirare, e la speranza ormai non spera più. Come un ciclista in salita, mi sento sfinito, mi chiamano illuso solo perché ho un sogno chiuso. E vivo in questo paese dove tutto è palese, ma quando scrivo canzoni vedo un po' di sole. Guarda in alto per lui, un cielo grande che non basta. Lui ragazzo di provincia sente che nulla comincia. La vergogna e il pentimento di essere nato sognatore. Lui ragazzo di provincia sente che nulla comincia. Non è facile stare tra la gente, a volte sembra ghiaccio bollente. Ero scultore di un amore, ma perso il sogno, il sognatore. Guardavo i miei dischi con rabbia e quella finestra troppo vicina al mondo, ma lontano dal sole ero in gabbia e vola in alto una rondine sola. Non devo più sperare e amare né dire sì all'altare. Mi chiamano illuso solo perché ho un sogno chiuso. Sempre le stesse montagne, le stesse vergogne, ma quando scrivo canzoni vedo un po' di sole. Guarda in alto per lui, un cielo grande che non basta. Lui ragazzo di provincia sente che nulla comincia. La vergogna e il pentimento di essere nato sognatore. Lui ragazzo di provincia sente che nulla comincia. Come non esiste la vera felicità, non esiste il vero silenzio. E anche se qualcuno strillerà, solo silenzio resterà. Guardo in alto per me un cielo grande che non basta. Io ragazzo di provincia sento che nulla comincia. La vergogna e il treno.